Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Buon anno da Sebastiano Barisoni, visto che è la prima che torno a condurre. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria sono temi che già avevano aperto la settimana ieri. Mi riferisco alle borse, ai timori per quello che riguarda il voto in Grecia e al continuo calo del prezzo del petrolio. Allora, va detto subito che oggi le borse sono tutte più tranquille. Non hanno recuperato i cali di ieri, ma Milano guadagna lo 0,22%, Parigi è meno 0,1%, Francoforte è più 0,5%, Londra è più 0,1%, l'America è meno 0,4%. Si era temuto il peggio questa mattina, quando l'Asia aveva, a questo punto possiamo dirlo, incamerato i cali di ieri dell'Europa. E infatti Tokyo ha perso il 3%, in mattinata Hong Kong l'1%. Apertura negativa delle borse e poi un lento recupero fino ai livelli appunto che ricordavamo. L'euro sul dollaro è l'altra notizia che in sostanza in realtà è un proseguo di quanto sta accadendo ormai da settimane. L'euro è a quota 1,1922 nei confronti del dollaro. Continuando sulla borsa, che sarà comunque come sempre parte dei nostri approfondimenti, segnaliamo tra i titoli migliori CNH Industrial più 2,50, Campari più 2,30 e Fiat Chrysler più 2,30%. Bene anche due energetici oggi in recupero, Enel più 2% ed Eni più 1,90%, come World Duty Free, Tenaris più 1,80%, Tods più 1,30%, Telecom più 1%. Invece il fronte opposto, Banco Popolare meno 3,80, Ubibanca meno 3,40, sono tutte molto deboli le banche, Popolare di Milano meno 3,40 anch'essa, Monte dei Paschi meno 3,30, Popolare Emilia Romagna meno 2, meno 3,20%, Autogrill poi perde il 2,80, Mediaset il 2,15, Azimut l'1,80%. Torneremo appunto sui temi. Oggi i giornali titolavano l'inizio dell'anno pesante sulle borse. Al di là del giorno per giorno restano tutti i temi sullo sfondo, ma resta anche una situazione che, per dirla tutta, potrebbe giocare a favore dell'Italia. Già il Centro Studi di Confindustria ha stimato a fine anno scorso una crescita del PIL italiano dello 0,5-0,7% da attribuirsi principalmente all'effetto positivo del basso prezzo del petrolio e del basso valore dell'euro. E questi andamenti sono destinati a proseguire, ma resta, come già detto anche ieri, l'incognita del voto greco. Dopodiché parleremo anche della vicenda italiana, non vogliamo sottrarci al tema. Il mistero della manina, della gelida manina. Allora, ancora non si hanno notizie su chi abbia inserito quella norma che poi è stata sospesa dal premier Matteo Renzi nel decreto attuativo della delega fiscale, una norma all'articolo 19 bis che prevedeva l'esclusione della punibilità quando l'importo delle imposte sui redditi evase non fosse superiore al 3% del reddito imponibile dichiarato. Al di là della polemica politica, se fosse o meno una norma destinata a salvare Berlusconi, perché nel processo Mediaset, dove è stato condannato per frode fiscale, i 7 milioni di euro sono meno del 2% dell'imponibile di Mediaset. Ma al di là di questo non si capisce, ma ne parleremo più avanti, perché introdurre una norma che di fatto sarebbe andata a legittimare l'evasione fino al 3%, perché una volta che tu dici che non è punibile un'evasione fino al 3% del reddito imponibile dichiarato, stai di fatto dicendo che puoi evadere fino al 3%. Non se ne sente bisogno, non ci sembra che il governo Renzi, che ha una tabella di marcia molto serrata su tanti temi, a partire dalle riforme istituzionali, abbia mai fatto della lotta all'evasione uno dei temi forti delle sue riforme, e quindi poi i sospetti che si generano sono molteplici, ripeto, anche perché non c'è solo il tetto del 3%, il cosiddetto salva Berlusconi, viene aumentata anche la soglia per l'evasione fiscale. Tutto questo è stato fermato poi dallo stesso premier Matteo Renzi, ma sostanzialmente l'imposta evasa per il reato di dichiarazione infedele avrebbe dovuto superare i 150.000 euro e non più i 50.000 euro come adesso, perché il reato fosse punibile penalmente. Un altro elemento riguardava la falsa fatturazione, perché scattava la denuncia quando la fattura non rispondente al vero avesse superato i 1.000 euro. Anche questo di fatto è un modo per dire: fino a 1.000 euro puoi fare la falsa fatturazione. E poi le dichiarazioni infedeli, quelle si prevede che non siano più punibili, si prevedeva che non fossero più punibili quelle sulle voci di costo che, imputate a un'impresa, quando sostanzialmente porti delle deduzioni riconducibili alla tua attività professionale, che in realtà poi si scopre sono spese private del contribuente o dei suoi familiari. Dico, dicevamo, tutto questo, al di là della polemica politica, non se ne capisce la necessità in un paese che comunque ha il record di evasione fiscale in Europa. Abbiamo sempre detto che è inutile accanirsi con gli studi di settore su alcune categorie che hanno un'oggettiva difficoltà e che è giusto perseguire l'evasione di grande livello, e a partire dall'evasione di grande livello, e quindi anche la vicenda del Lussemburgo ci ha interessato parecchio. Ma detto questo, detto che Equitalia deve... occorre anche una comprensione delle situazioni di estrema difficoltà in cui vivono molte categorie professionali, non si vede la necessità di ammorbidire tutte le regole sull'evasione fiscale in un paese che non mi sembra abbia risolto questo problema. Ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve, poi un paio di aggiornamenti non solo sui vigili assenti a Roma o su Pompei chiusa, ma anche su alcune spese interessanti. In Puglia sono esplose le spese per i convegni, pensate un po', soprattutto nell'area del Salento. Comunque, le notizie in breve. Allora, vedo molti ascoltatori, grazie per i complimenti, grazie anche per gli insulti, come si dice, anno nuovo, vecchie abitudini. No, confermo l'analisi, le borse erano negative e sono partite male tutte, hanno corretto nel finale più 0,20%, ma la giornata conferma invece da un lato il calo del prezzo del petrolio, il WTI, quindi il petrolio del Texas, che serve come riferimento negli Stati Uniti, è ormai sotto i 49 dollari al barile, e il Brent, il petrolio che usiamo come riferimento in Europa, il petrolio britannico del Mare del Nord, è a 51 dollari. Dallo scorso settembre, forse vale più ricordare questo, dallo scorso settembre il petrolio ha registrato una flessione del 48%, e questo come conseguenza del calo del prezzo del petrolio, si viaggiava intorno ai 90-100 dollari al barile, e anche del rafforzamento del dollaro, quindi eccesso di offerta, debolezza della domanda e rafforzamento del dollaro. Quanto è scesa la benzina invece in Italia? È scesa di circa il 14%. Ora più o meno ci siamo, perché dico più o meno ci siamo? Perché il prezzo del petrolio, come ricordiamo spesso, rappresenta solo il 30% del prezzo della benzina, il 70%. E infatti, dovuto a tasse e accise, le accise sono stabili, perché non sono variabili, sono stabili a 72 centesimi al litro. L'IVA invece è un po' scesa, da 31 centesimi a 28 centesimi. Il calo del prezzo del petrolio, secondo le stime fatte da Federconsumatori e Adusbef, potrebbe portare nell'arco di un anno un risparmio per gli italiani fino a 200 euro di spesa per famiglia, non solo sul prezzo complessivo del pieno, ma anche, calcolo, circa in 120 euro l'effetto benefico del calo del prezzo delle materie trasportate attraverso appunto l'utilizzo della benzina o del diesel. Mentre veniamo a sapere questa notizia, che riguarda poco con il petrolio, ha poco a che fare con il petrolio, ma è comunque una notizia Degna di nota che il 2014 è stato l'anno più caldo dal 1891. La Russia. Oggi il livello delle premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi dal rischio Russia, così abbiamo battezzato e chiamato in questi anni i credit default swaps, sono saliti a 600 punti, contratti a 5 anni, un rialzo di 63 punti base. Praticamente per proteggere 10 milioni di dollari in titoli di Stato per 5 anni, il costo per un investitore per proteggersi dal rischio fallimento Russia, il costo per un investitore sale così a 601.000 dollari l'anno. Allora, per quello che riguarda invece l'economia americana, interessante oggi notare come continui a crescere il mercato immobiliare a New York soprattutto, ma negli Stati Uniti in generale. A New York il prezzo del mattone ha superato i livelli del 2008, un prezzo medio di vendita di una casa a New York è intorno al 1.700.000 dollari. Nel 2008 era 1.600.000 dollari, quindi è un altro segnale indiretto di come si sia ripresa l'economia americana. Ma complessivamente volano i prezzi di tutte le case negli Stati Uniti. Volete sapere dello spread? Oggi è sceso a 132 punti, il rendimento del BTP italiano a 10 anni è dell'1,81%. Per quello che riguarda invece le riforme a partire dal Jobs Act, potrebbe essere trasmesso già domani alle Camere il decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, quello varato dall'ormai celebre, famoso Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, famoso per quanto ricordavo prima, per la manina. E dicevo, potrebbe essere trasferito già domani per il previsto parere delle commissioni di lavoro e poi dovrà essere espresso entro 30 giorni. Questo parere non è vincolante. Allora, la vicenda, visto che entriamo in tema di come vengono spesi i soldi dei contribuenti, ha fatto molto scalpore anche per le immagini quanto è accaduto a un chilometro di asfalto che comprende due viadotti della Palermo Agrigento, 13 milioni di opera in dopo 6 giorni. L'opera ha battuto 2 record perché aveva avuto un primo record, l'anticipo di 3 mesi sulla consegna dei lavori, e la chiusura per crollo 6 giorni dopo. L'appalto era affidato al consorzio di imprese Bolognetta, costituito dalla CMC di Ravenna, da Tecnis di Catania e della CCC di Bologna. La procura di Termini Imerese ha fatto sequestrare tutti gli atti riguardanti il viadotto, ma il capo cantiere Pierfrancesco Paglini, al microfono della nostra Raffaella Calandra, ha detto: attenzione, sono cose che non devono succedere, i danni sono molto più limitati, ha puntato il dito sul fatto, anche sulla fretta nel consegnare questi lavori. Se si vedevano le foto del giorno 29, ovviamente la cosa era molto più minimale. Nessuno ha rischiato niente, perché intanto la strada è stata aperta provvisoriamente al traffico, c'erano le feste, bisognava cercare di rendere più fruibile possibile il transito. Pensiamo ci sia stato un cedimento sul terreno. L'errore può esserci stato nella valutazione del terreno sottostante? Le indagini andranno proprio in questa direzione, cioè capire se sono state erroneamente valutate le capacità portanti del terreno sottostante. Ritengo personalmente che di negligenza e di omissione non si possa parlare. Se, come io penso, sia stato tutto correttamente valutato, ma ci sono degli eventi occulti, insomma qualcosa sotto che non era riscontrabile, lo diremo serenamente. La prima cosa che faremo appena ci verrà restituita l'opera, noi ricostruiremo il rilevato, non ci sarà alcun aggravio per l'amministrazione. Se ci fossero state delle persone coinvolte, la situazione era ben peggiore. Lo condivido perfettamente, ma è un caso che non poteva verificarsi proprio per le attività di monitoraggio che erano state messe in campo. La Salerno-Reggio Calabria è piena di tratti aperti provvisoriamente a strisce gialle e proprio perché hanno funzionato controlli non è successo nulla. Vabbè, a modo nostro ricordiamo il grandissimo Pino Daniele per raccontare invece cose non grandissime. Al di là, allora, partiamo dai vigili di Roma. Non sono 571, complessivamente gli assenti sono stati 767 perché ci sono stati oltre 571 famosi, oggi sono partiti i primi 30 provvedimenti disciplinari. Ci sono stati anche alcuni che 81 che hanno chiesto la legge 104 e questo ci mancherebbe, noi partiamo sempre dal rispetto e dalla presunzione di buona fede. La legge 104 è quella che permette ai parenti di familiari che abbiano disabilità di assentarsi dal lavoro. 63 hanno donato sangue proprio quel giorno, vabbè, e 52 per altri motivi. In realtà i vigili contestano il piano messo a punto dal comandante Raffaele Clemente. Abbiamo capito tutti che sotto traccia, neanche tanto sotto traccia, c'è una guerra, un braccio di ferro col Comune di Roma. Le disposizioni riguardano la rotazione degli incarichi come misura per fronteggiare la corruzione, che è un piano che dovrebbe partire il 12 gennaio. Non ho ben capito che cosa ci sia che non va nella rotazione degli incarichi, però. E chi dice che Masaniello vuoi dire non sia più bello? E non sono meno mano, sono pure di Romano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Iso pazza, un ciscassato cazzo. Allora, però c'è Bologna che è un caso virtuoso perché proprio la notte di Capodanno tutti i 66 vigili bolognesi hanno svolto il loro incarico. È un po' strano, abbiamo messo io so pazzo perché bisogna essere pazzi per trovare in questa notizia una notizia e non un atto normale, per cui non ci dovrebbe nemmeno essere una notizia quando i vigili la notte di Capodanno vanno al lavoro. C'è chi ha fatto notare che comunque mancando i due terzi dei vigili a Roma non è successo nulla e forse, anzi più di due terzi, si era quasi all'85% e forse evidentemente ci sono l'85% di esuberi. È chiaro che è un ragionamento cattivo, un ragionamento che non vuol dire nulla, però viene voglia di farlo quando ci sono 767 vigili che non vanno al lavoro la notte di Capodanno. E ancora, giustamente, c'è chi fa notare, ma scusate, ma l'ordine dei medici in questi casi interviene? Perché hanno un ordine anche i medici, ma chi firma i certificati? Ma dovrà rispondere, o in questo paese decretiamo pure che il certificato medico è insindacabile, nel senso che non si capisce come mai tutti si ammalino? Ci sono casi, non vorrei annoiarvi, ma ci sono casi impressionanti, perché un anno fa 126 dipendenti della Nettezza Urbana di Palermo fra Natale e Capodanno furono colpiti da un'epidemia di acciacchi e chiaramente Palermo si trovò ricoperta di rifiuti ordinari e straordinari. La procura ha ipotizzato che i permessi sindacali e certificati medici fossero falsi. Anche perché improvvisamente tutti stavano male in quel periodo. Ma poi c'è il distretto sociosanitario di Catanzaro Lido, dove 95 su 120 assunti, 95 stavano malati indipendentemente dal calendario. Poi la macchinetta elettronica per far passare il badge era sempre guasta. In generale, andiamo sulle cifre. Allora, in generale le assenze dal lavoro nel settore pubblico toccano il 20%, nel settore privato il 13%. E già lì uno dice, ma com'è possibile che ci si ammali quasi il doppio nel settore pubblico? Poi vai a vedere la media, L'ultimo dato è metà del 2014, il Ministero della Funzione Pubblica. Allora, la media nella pubblica amministrazione è di 0,55 giorni per causa di malattia. Però i ministeri arrivano a un giorno, a 0,98, quindi il doppio, e picchi particolarmente alti al Ministero della Giustizia, 1,82 giorni a dipendente, e della Difesa 1,21, cioè praticamente siamo alla giustizia a tre volte la media dei ministeri, alla Difesa oltre il doppio. O c'è qualcosa di malsano negli uffici o... Vabbè, chiudiamo in bellezza prima di lasciare la pausa e parlare della situazione dell'economia internazionale, tra mercati in tensione per la Grecia, petrolio in calo e dollaro in rafforzamento. Allora, non voglio tornare su Pompei, ho visto che il ministro Franceschini ha detto, ma insomma sono in polemiche estemporanee, a Natale e Capodanno sono chiusi tutti i più importanti musei del mondo, vabbè. A parte il fatto che magari sono più efficienti nel resto dei giorni dell'anno, ma il punto è un altro. Siccome l'anno scorso, negli anni passati, a differenza degli altri musei del mondo, Pompei è sempre rimasta aperta, qualcuno forse avrebbe dovuto avvisare gli operatori turistici, perché sono arrivati almeno 30 pullman, poco meno di 2000 visitatori persi, con i selfie, il danno di immagine, i social network che ci hanno sguazzato. Però poi rivolgo un appello alla Puglia e in particolar modo al Salento, la regione maggior crescita turistica, la movida pugliese. Che cosa sta succedendo in Salento? Perché sta diventando il centro regionale dei convegni in questo paese. Nel 2014 il comune di Lecce ha speso 1 milione di euro per manifestazioni e convegni. È la stessa cifra che ha speso per le mense scolastiche, che già tradice lunga, no? Praticamente sono quasi 12 euro pro capite contro la media per organizzare eventi, convegni, congressi, manifestazioni, contro una media nazionale di 3 euro. Ma a Barletta si sono spesi 830.000 euro, a Trani 250, scusatemi, a Trani da 250 a 440.000 euro, ad Andria 750.000 euro, a Bari, che mi sembra un po' più grande di Andria e anche di Trani e anche di Barletta, solo 200.000 euro. E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello, e non sono meno male. Sono pure di Romano e la faccia nera. E poi tutto questo è reperibile sul sito soldipubblici.governo.it. Allora, a Taranto spende in carburanti, combustibili e lubrificanti 1.600.000 euro. Sono 8 euro ad abitante contro i 3,50 euro della media nazionale. Altamura spende 242.000 euro. Trani 350, Bari, che è un po' più grande di Trani, di Barletta e anche di Taranto, si ferma a 286.000 euro. Io vorrei sapere come ha fatto Taranto a spendere in lubrificanti, combustibili e carburanti 1.600.000 euro, cioè quasi 6 volte quello che spende, anzi più di 6 volte quello che spende Bari. La cancelleria. Allora. A Lecce, penne, matita, carte stampati per gli uffici pagano 270.000 euro. A Bari, per dare un esempio, che anche è più grande di Lecce, sono 148.000 euro. Ma il mito è Gravina, sempre in Puglia, ha speso la stessa cifra di Bari per cancellerie, matite, carta, stampanti, toner, 150.000 euro. Attendiamo notizie. Già 7:32 minuti. Allora, a dimostrazione che alcuni ascoltatori, prima di scrivere i messaggi, dovrebbero capire che la borsa è in continua evoluzione, adesso la borsa ha chiuso in negativo. Vedo che molti mi ricordano, guardi che la borsa guadagnava anche l'1%, oltre l'1. Attenzione, ha perso lo 0,25%, quindi la seduta è estremamente volatile, per cui attenzione. Vedo che alcuni mi contestano sotto il 3% del fatturato sulla norma salva Berlusconi, adesso ne parliamo dopo. Il punto è, c'è bisogno di norme che di fatto invitino ad aumentare l'evasione fiscale in questo paese, sì o no? La risposta del sottoscritto è no, punto. Berlusconi o non Berlusconi, ma ne parliamo dopo. Invece dicevo, borsa meno 0,25%, Parigi meno 0,50% e ancora Londra meno 0,50%, Francoforte più 0,13%, tutte hanno ritracciato. Ma i cali pesanti sono stati quelli di ieri, i 200 miliardi bruciati in borsa su cui titolavano oggi praticamente tutti i giornali. Paura, è stato un combinato disposto, paura per la situazione greca, il prossimo 25 gennaio come presumibile si andrà a votare, calo del prezzo del petrolio che però penalizzerà le compagnie energetiche ma renderà un beneficio ad altri gruppi e all'economia complessiva dei paesi che importano petrolio come il nostro, anche perché nel frattempo continua a calare prezzo dell'euro. L'euro è a 1,19 sul dollaro, quindi il calo del petrolio ti permette di annullare l'effetto di un euro più debole. In realtà poi c'è tutta una rida di altre voci, penso al Wall Street Journal che ieri titola attenzione, il 2015 rischia di essere l'anno non della fine dell'euro ma l'anno più difficile per l'area euro e a questo punto deve rimuovere gli ostacoli interni o sarà un anno delicatissimo. Di nuovo oggi il vicepresidente della Commissione Europea Katainen ha detto attenzione, la permanenza nell'area euro è irrevocabile, ci sono troppe voci, non ne abbiamo bisogno. La Grexit, dice Schulz, è una speculazione irragionevole. Grexit è l'acronimo per dire l'uscita della Grecia dall'area euro. Allora, Francesco Daveri è docente di politica economica all'Università di Parma. Buonasera, professore. Buonasera. La sento un po' bassa. Ah, beh, sono qua. Eccolo. E grazie anche alla dottoressa Claudia Segre, segretaria generale dell'Assium Forex, nostra ospite già altre volte, esperta del mercato dei capitali. Buonasera dottoressa. Buonasera. E buon anno a tutti e due. Grazie. Allora, Segre, vorrei partire da lei in primo luogo. Che cosa sta capitando? È chiaro, abbiamo visto i timori per la Grecia, il petrolio che cala, ma ripeto, è anche un vantaggio economico per l'Italia e per l'area euro in generale. L'euro più basso è un vantaggio economico per i paesi dell'area euro che esportano, cioè la maggior parte, e la Grecia è tutta speculazione. Perché tutto si sta condensando e tutto porta a dire, nonostante lo spread sia ancora a 130 punti, è sceso leggermente oggi, perché questa tensione che delle volte ha rasentato e ha sfiorato il panico? Ma soprattutto perché è difficile fare una valutazione degli effetti di questo crollo del petrolio che ha sostanzialmente dimezzato la sua quotazione in 6 mesi, in un contesto dove abbiamo appunto tassi negativi, una spinta alla deflazione creata proprio dal ribasso del petrolio che è evidentemente effetti deflattivi e una banca centrale che europea che ha una missione di portare l'inflazione a certi obiettivi e non ci riesce, ha fallito anche sulle prospettive di questa inflazione. Quindi il problema è muoversi su territori sconosciuti e tra altre cose con dei ritardi che sono dovuti alle tempistiche imminenti delle elezioni greche. Quindi è tutta una situazione complessa che sfavorisce gli investimenti o comunque un consenso positivo da parte del mercato che quindi tireremo in barca e si metta alla finestra. Ecco, però mi scusi dottoressa, visto la situazione mondiale, adesso investire non è che vi siano molti altri posti dove i flussi di capitale possono dirigersi, nel senso che in Russia abbiamo visto anche oggi il CDS a 600 punti, negli Stati Uniti sappiamo tutti che adesso prima o poi la Fed, seppur in maniera molto morbida, lo ha già anticipato, non prima di metà anno, ma inizierà a aumentare i tassi di interesse. E dove vanno i capitali? Perché io capisco il timore per la Grecia, il timore per il petrolio, ma dove vanno in questo momento i flussi di capitale? Ma io sono molto d'accordo con lei e penso che qualcuno ci darà dei contrarian, ma non ci sono altre alternative. Gli emerging market non si possono toccare sulle divise locali a causa della situazione interna politica e del rialzo dei tassi americani imminente. Non si possono toccare le commodities con il rame che è al minimo dagli ultimi 4 anni e l'unica, diciamo, commodities che eccelle è il palladio. Per logica conseguenza esistono solo i mercati azionari europei esiste il dollaro, c'è certamente il mercato azionario giapponese e i mercati asiatici ovviamente con le pinze. Quindi l'Europa è una soluzione ed è l'investimento più interessante, soprattutto dal punto di vista delle corporate per questo anno e per i mercati azionari che offrono opportunità di entrata. Certamente nonostante questa evidenza, per adesso stentano ad arrivare gli investimenti sui mercati finanziari europei. Perché no? Anche perché ho dimenticato di aggiungere, pure i paesi OPEC che non sono certo emergenti, ma con un petrolio a questi livelli, difficile che uno scommetta su una crescita tumultuosa dei paesi OPEC, ossia i paesi produttori di petrolio. Poi assolutamente, anche perché metteranno a segno dei deficit, perché certo. Ovviamente le loro borse hanno aperto molto male questo inizio d'anno e le case di rating sono sul chi va là proprio per la valutazione dei budget di questi paesi. E quindi paesi emergenti no, perché come lei ricordava le valute locali sono troppo a rischio, il dollaro andrà in rafforzamento e quindi rischi di perdere quel poco di guadagno che hai a livello di cambio. I paesi OPEC no, la Russia men che meno, a questo punto l'America andrà, ripeto, in una forma e in un percorso più o meno accelerato di rientro dal quantitative easing, dallo stampaggio di moneta, e a questo punto resterebbe solo l'Europa. Vorrei sapere da Francesco Daveri se è d'accordo con questa analisi e poi allargarla a che cosa sta spaventando di più anche tutta questa polemica sulla Grexit, che prima viene prima, diciamo, creata dallo Spiegel, se non ricordo male, che cita un incontro di Angela Merkel, di persone a lei vicine, che, in cui si ragionerebbe sul fatto che la Grecia potrebbe anche uscire dall'euro, tanto Irlanda e Portogallo sono risanati, sarebbe solo la Grecia. Poi si affrettano a smentire l'ipotesi, anche solo l'ipotesi, che la Grecia possa uscire dall'euro. Professore. Ma dunque, allora, sono due cose. Uno è che tutto sommato io direi che i capitali hanno un posto dove andare ed è l'America, perché in effetti le borse vanno bene sia se si aspettano che le banche centrali tengano i tassi a zero o rinnovino il quantitative easing, però c'è anche l'altro aspetto che è l'economia reale, che dopo tutto è la fonte prima per i profitti veri, no? Quindi siccome in America invece i profitti vanno bene, è vero che ci sono multipli molto alti anche storicamente sui mercati azionari americani, però sicuramente questo penso che possa essere un posto dove andare a mettere dei soldi se uno vuole spostarsi dall'Europa, quindi almeno l'America continua a essere, credo, una non proprio un'area sicura, perché di sicuro ovviamente in una situazione di grande turbolenza non c'è nulla, però insomma sicuramente è un'alternativa molto plausibile a un'Europa che continua a essere presa dentro ai problemi che sembravano 4 anni fa e che si sono invece riaffacciati. Per quanto riguarda la Grecia, non siamo a 4 anni, siamo invece in una situazione in cui per esempio le banche francesi e le banche non hanno più l'esposizione che avevano 4 anni fa con i titoli greci, quindi vuol dire che in questo senso la Merkel dice sono Austria e Greci in prima approssimazione, salvo poi insomma farsi smentire o comunque la ragione ultima, autosmentirsi, insomma comunque di fatto la ragione ultima è che il debito greco non è più un problema per i bilanci delle banche europee, soprattutto direi delle banche francesi e tedesche, ma è un problema dei debitori sovrani. Alla faccia della solidarietà, dei grandi principi, diciamo, europei. No, è verissimo quello che lei dice, è meno un problema perché le banche tedesche e francesi non hanno più in pancia titoli di Stato greci. Questo è un po' il succo. Ma perché è ripartito il circo, professor Daveri? Lei se le sarà fatta questa domanda? Ma sì, indubbiamente è avvenuto, cioè c'è un evento, l'evento è le elezioni greche del 25 gennaio e la possibilità che insomma bolliva già in pentola la cosa, nel senso che c'era un problema di fine di un programma fine del programma Troika e non si sapeva bene con che cosa sarebbe stato sostituito, visto che in Europa già da tempo si parla di più flessibilità in cambio di più riforme. Questo vale anche per la Grecia, e però allora questo vuol dire che finisce la Troika, cioè finisce uno schema in cui c'erano i guardiani che controllavano un governo regolarmente eletto dai propri elettori, che era una situazione sicuramente, ed è tuttora una situazione piuttosto sgradevole dal punto di vista della democrazia, insomma del legame tra democrazia e fiscal compact, che è molto complicato insomma in Europa. Però dato che questa situazione ancora non ha portato una nuova situazione in cui si decide collettivamente, si fa il monitoraggio gli uni rispetto agli altri, si sanzionano tutti gli squilibri in cui, non so, si sanziona non solo il debito pubblico italiano, il debito pubblico greco, ma anche l'eccessivo avanzo di bilancio di commercio estero dei tedeschi. Ecco, non siamo in questa situazione, anche se ogni tanto la cosa ritorna fuori, e quindi in questa situazione è chiaro che le elezioni greche possono dare luogo a un esito che è più probabile, che sarà quello di il venir fuori del problema della ristrutturazione, sì, del debito greco. Ecco, su questo vorrei sentire anche l'autoressa Segre, perché Tsipras, se ho ben capito, dice o l'Europa accetta di rinegoziare il nostro debito e di allungare la scadenza, perché non ha senso che i pochi progressi che la Grecia sta facendo, la crescita economica, quel poco di crescita economica che la Grecia sta facendo, venga tutto utilizzato per pagare gli interessi sul debito. Non usciremo mai da questa situazione, dice Tsipras. Se tanto anche cresciamo, ma poi questi soldi vanno in interessi sul debito che abbiamo, la situazione si avviterà sempre di più e la crescita non porterà consumi interi, non porterà una ripresa vera e propria dell'economia greca. Quindi rinegoziamo il debito, allunghiamo la scadenza, che di fatto vuol dire appunto fare un taglio del debito, oppure usciamo direttamente da questa Europa, non ci faremo torturare dai tedeschi. Chi ha interesse a speculare, Segre, perché la Grecia possa uscire dall'euro? Allora, in questo momento, al di là di quelli che possono essere gli interessi di quegli hedge fund cosiddetti avvoltoi, che hanno già lavorato su altre ipotesi di default come quello argentino, venezuelano e così via, ci sono pochi che hanno interesse a far sì che la Grecia esca dall'euro, soprattutto perché i cinesi, che hanno investito tantissimo insieme, hanno comprato il porto del Pireo praticamente, insieme ai tedeschi e altri investitori, grossi investitori anche medio orientali, hanno tutto l'interesse che la Grecia rimanga all'interno dell'ombrello europeo per tutte quelle che sono le conseguenze di commercio internazionale e di business che si possono immaginare. La verità è che qui c'è un prezzo politico da pagare. Tsipras non tiene conto che il consenso del mercato con i tassi a 3 anni al 12% si può ottenere solo se c'è un governo stabile e se c'è un piano stabile. A nessuno fa piacere che gli azzeri vengano a comprarsi la televisione di Stato piuttosto che le privatizzazioni vengano fatte in maniera cannibalesca, però ci vuole un governo stabile, e sappiamo perfettamente che la Grecia ha un difetto all'origine, è entrata nell'euro con dei bilanci farlocchi. Quindi nella buona sostanza, finché non c'è governo stabile, non possiamo parlare di un ritorno al mercato e di un riposizionamento della curva in una maniera che sia un minimo virtuosa. Quindi mi scusi, però ci ho ben capito, lei dice che fino al prossimo 25 gennaio continueremo a ballare in questo modo, e anche dopo il 25 gennaio, se dovesse uscire una vittoria netta di Tsipras, continueremo a ballare? Ma allora, Tsipras non ha i numeri per una vittoria netta, sta perdendo peraltro nei consensi, perché le pressioni che sono arrivate dalle parole smentite dei tedeschi fatte ad arte, nonché domani c'è la conference call la conferenza stampa di Samaras, che sta in un certo senso mettendo un po' lo spauracchio alla cittadinanza, è chiaro che farà sì che Tsipras dovrà fare un governo di coalizione e venire a patti con altri partiti, tra cui sappiamo benissimo che Dimari, socialisti che erano usciti dalla coalizione con Samaras, non vogliono assolutamente fare la coalizione con Tsipras. Quindi la strada di Tsipras non è facile e non è certamente quella dell'uscita dell'euro, è quella di trovare una mediazione per l'allungamento, per avere una sorta di moratoria o comunque di allungamento sui pagamenti del debito, che sarà l'unica cosa che otterrà dall'Europa. Ecco, su questo volevo chiudere anche con Daveri, dopo il traffico, ma insomma tutto questo caos, io non vorrei, allora la storia non si ripete mai se non sotto forma di farsa, diceva Marx, però non vorrei tornare al 2012, nel senso che tutto sto caos per allungare il debito greco, cioè, chiediamoci se ne valga la pena, nel senso che piuttosto allunghiamo sto debito e garantiamo ai flussi di capitale in Europa una situazione più tranquilla, perché abbiamo già visto nel 2012 cosa capitò all'intera area euro per non aver voluto sostanzialmente fare quello che poi siamo stati obbligati a fare, cioè salvare la Grecia. Vorrei capire il perché di questa resistenza nel, non dico accettare tout court la proposta di Tsipras, ma nel dire vabbè, tanto di riffa o di raffa, dovremo fare così, quindi cerchiamo di trovare una mediazione e allunghiamo questa scadenza del debito Greco. Di nuovo in diretta. Allora, professor Daveri, ma invece di partire con un nuovo circo, aprendo praterie per la speculazione, ma non si può da subito dire, vabbè, troviamo un accordo con la Grecia per rinegoziare il debito, perché ci rendiamo conto che se i progressi della Grecia nell'economia, dopo 7 anni di recessione, finiscono tutti a pagare gli interessi sul debito, la Grecia continuerà a sprofondare in una crisi economica sempre più forte e Tsipras continuerà a aumentare i suoi voti, perché il voto di pancia è da sempre un voto di protesta, e quando la pancia è vuota è ancor più di protesta. Professor Daveri. Ma il problema è che prima devono svolgersi le elezioni greche perché si possa arrivare a un compromesso plausibile come quello che suggeriva lei, cioè se la Germania o Bruxelles partisse già ora proponendo un accordo di questo tipo, se poi vince Tsipras, quello è il punto di partenza da cui Tsipras vuole chiedere di più. Quindi è una questione, mi sembra che siamo in pieno in una specie di braccio di ferro che durerà da qui al 25 e anche dopo, dato che presumibilmente ci sarà poi un governo di coalizione, che si sa che ci vuole del tempo per trovare l'accordo per una nuova coalizione, spesso tra diversi, cioè tra persone che si sono insultate e partiti che sono insultati in campagna elettorale, che improvvisamente poi devono andare d'accordo. Quindi non credo che sia pensabile a niente di diverso che quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè c'è una campagna elettorale in Grecia che sarà euro sì, euro no, e soprattutto anche magari dentro all'euro come, e questa è la cosa, e però mi sembra ragionevolmente difficile che i tedeschi o Bruxelles o chiunque altro possa offrire sul piatto subito, dice lei, la bilancia subito il risultato di un accordo, di un braccio di ferro che sarà invece dopo le elezioni e non prima. Sì, ha fatto bene a sottolineare che il tema è più che altro come si resta nell'euro, non solo euro sì, euro no, perché adesso, certo, per non forzare l'analisi di Tsipras, lui non dice usciamo dall'euro come dicono alcuni. No, poi fuori dall'euro non ci sono praterie di crescita, cioè non ci sono praterie di speculazione, ma neanche praterie di crescita, perché perderebbe l'accesso ai capitali. Questo... e potenzialmente invece adesso Tsipras la Grecia dice, bisogna stare in un modo diverso. Dottoressa Segre, forse ho fatto una domanda un po' naif o stupida per essere meno buoni, ma non sarebbe più, non si potrebbe tagliare la testa al toro e iniziare a far capire che comunque un accordo si raggiungerà e si dovrà raggiungere con il debito greco? Allora, i tedeschi non possono permettersi un braccio di ferro con la Grecia, questo mi sembra abbastanza logico, perché ci sono già troppi tavoli aperti, da quello russo ad altri più ulteriori problematiche, basti vedere anche oggi il mini attentato che c'è stato in Turchia. Quindi la situazione di tutta l'area fa sì che la Germania debba prendere in considerazione, nel caso specifico europeo, di fare un passo indietro e di venire a conciliazione per non fare gli errori che ha fatto nel passato di sottovalutazione della questione greca. Quindi senz'altro sono dell'idea che si arriverà a un compromesso, ma come si diceva, solo dopo le elezioni, solo dopo che la coalizione si sarà formata e ci saranno degli interlocutori reali e veramente interessati a trovare una soluzione per il paese. E farà parte anche questo della tattica, ho capito benissimo, per cui per arrivare a un compromesso non sveli subito le tue carte, ma avete ragione a notare che insomma anche il tempo, il 25 gennaio è una data ottimistica, perché la coalizione, se va bene, si formerà in qualche giorno, se va male in qualche settimana. Grazie intanto a Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università di Parma, e al segretario generale dell'Assium Forex, Claudia Segre. Nel frattempo a casa nostra, e lo ricordavamo, le associazioni dei consumatori fanno i calcoli sui benefici, perché non sono solo notizie negative, sui benefici che il basso euro, ma soprattutto il basso prezzo del petrolio, ripeto, quasi il 50% di calo da inizio anno, da settembre, scusatemi, avranno sulla nostra economia. Allora, la nostra Livia Zancanera ha raggiunto il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, che ha messo assieme il combinato disposto tra petrolio a basso costo e euro debole. sono due ottime notizie per le possibilità di una ripresa nel corso del 2015 per l'Italia. Per quanto riguarda le imprese si riducono i costi dell'energia, quindi è un elemento di competitività per quanto riguarda questo il petrolio, e il cambio che si deprezza contro il dollaro aumenta la competitività delle nostre imprese. Ne abbiamo calcolato ad esempio che una variazione del 10% del cambio euro-dollaro può avere un impatto positivo sull'economia italiana dello 0,4%. In una fase in cui cresciamo così poco, anzi l'anno scorso abbiamo avuto una diminuzione del PIL, questo è estremamente positivo. Ma nel momento in cui ci sarà un'inversione di tendenza, cosa succederà? Credo per quanto riguarda il cambio che non avremo un'inversione di tendenza, perché questa fase di apprezzamento del dollaro dovrebbe durare per tutto il corso dell'anno, è dovuta a una divergenza delle politiche monetarie. In Europa ci attendiamo una fase di quantitative easing da parte della BCE, mentre la Fed a giugno o al più tardi a settembre inizierà ad alzare i tassi di interesse. Non dimentichiamo che oggi un titolo decennale tedesco rende lo 0,5%, mentre un titolo di pari durata americana rende il 2,6%, quindi differenziale di crescita a favore degli Stati Uniti, differenziale di rendimento a medio-lungo termine a favore degli Stati Uniti sono fattori fondamentali a vantaggio di un apprezzamento del dollaro. Ma se persistono questi fattori positivi, come mai sono giorni difficili per i mercati azionari? Perché l'Europa sembra in questo momento agli investitori di tutto il mondo un condominio particolarmente litigioso, con guerre di posizione da parte della Germania, con ingerenza per quanto riguarda l'elettorato greco, vedi l'aver fatto trapelare la possibilità di un'uscita della Grecia dall'euro. Tutto questo determina grande incertezza, il rischio di un'uscita della Grecia, peraltro esclusa dallo stesso Tsipras, ed effetti a catena anche per quanto riguarda soprattutto la realizzazione di un quantitative easing. È chiaro che l'opposizione che oggi Draghi incontra sul fronte tedesco per un programma di acquisto forte di titoli di Stato può essere rafforzata da un atteggiamento greco che non vorrebbe mantenere gli impegni assunti con la stessa Unione Europea, e quindi tutto questo determina forte volatilità e incertezza. Nel caso di un'uscita della Grecia dall'euro si è parlato di una Lehman Brothers 2, ma gli effetti concreti quali potrebbero essere? Innanzitutto io non penso che la Grecia uscirà, lo stesso Tsipras dichiara il contrario, il 75% dei greci non vuole uscire, il trattato non lo permetterebbe, ma visto che siamo nel campo delle ipotesi non lo escludiamo completamente. L'effetto per la Grecia sarebbe credo molto negativo, la nuova dracma si svaluterebbe in misura molto forte nei confronti dell'euro, e soprattutto per quanto riguarda l'area dell'euro nel suo complesso si creerebbe un precedente pericoloso nei confronti di altri stati che sono in difficoltà. In effetti il centro studi Confindustria, ricorderete, stimava che un petrolio a basso costo, tra l'altro pochi minuti fa il petrolio è sceso di nuovo sotto i $40 al barile a New York, può avere un effetto positivo, $48 al barile scusatemi a New York, un effetto positivo dello 0,3%, cioè crescere uno 0,3% il nostro PIL nel 2015 e 0,5% nel 2016. Opinione abbastanza simile anche da parte del trader indipendente Antonio Lengua, sempre raggiunto dalla nostra Livia Zancanera. Il prezzo del petrolio ha una duplice valenza. Bisogna vedere se nel bilancio delle aziende entra come componente di costo o come componente di ricavo. Per le aziende che hanno il petrolio come componente di costo, una discesa dei prezzi del petrolio è assolutamente positiva. E anche per le famiglie italiane, in cui il petrolio è un costo, la benzina alla pompa, piuttosto che tutti i derivati del petrolio, un prezzo del petrolio più basso aiuta le famiglie e libera capacità di spesa e quindi è positivo sull'incremento dei consumi e quindi del prodotto interno lordo, e se fosse un'azienda con migliori redditi. Invece le aziende che hanno una componente di ricavo, come per esempio Eni, Saipem, Tenaris, Eni molto presente sui portafogli degli italiani, una discesa del petrolio vuol dire minori ricavi e quindi l'azienda perde. Yeah. 18 e 7 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa e poi della delega fiscale, del famoso Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, che poi con quello che è successo dopo, e poi viene anche il sospetto sul 24 dicembre, vabbè, lasciamo stare, dai, ce ne sono già troppi di sospetti, di gialli su questo. Per la borsa. Eleonora Micheli, buon anno, Radio Corriere sulle 24 ore, buon anno Eleonora. Buon anno a tutti. Allora, borse volatili è dir poco oggi, perché abbiamo visto prima un'apertura in negativo sulla scia dell'Asia, che ha chiuso male, meno 3% Tokyo, poi un recupero oltre il punto percentuale. Abbiamo iniziato il programma con le borse ancora a un più 0,2 e adesso meno 0,25 per quello che riguarda Milano, meno 0,05 per Francoforte, meno 0,70 per Parigi, meno 0,80 per Londra, meno 1% adesso il Dow Jones. Che cosa è successo nell'ultima ora, ora e mezza? Sì, nell'ultima ora soprattutto diciamo che ha preoccupato ulteriormente l'ulteriore crollo del petrolio, che ha sfondato, ha ribasso la soglia dei $48 al barile, quindi questo ha creato una certa ansia. Poi va detto che ovviamente oggi è stata una giornata estremamente volatile, anche perché essendo un giorno di festività gli scambi sono più rarefatti e quindi è più facile che gli indici, ma anche i singoli titoli, cambino direzione. Sì, volumi bassi, quindi i titoli si muovono molto di più. Molto deboli oggi di nuovo le banche in Italia. Banco Popolare meno 4,70, Pop Milano meno 4,11, Monte dei Paschi meno 3,90, Pop Emilia Romagna meno 3,80, UBI Banca meno 3,5. Concludo con Intesa San Paolo meno 1,40 come Unicredit. Già dalle percentuali si capisce che a perdere di più sono state le banche popolari. Esatto, poi in verità poco prima della chiusura Unicredit e Intesa rialzavano la testa, sì, dopo sì, i ribassi di ieri, invece poi non ce l'hanno fatta, hanno perso anche quest'oggi e hanno perso abbastanza, oltre l'1%. Ecco, il motivo per cui, vabbè, diciamo, ricordiamo però che Intesa e Unicredit erano state molto negative ieri, ma il motivo per cui oggi di nuovo così male le banche? Oggi si continua a pensare appunto su quello che saranno i risvolti dell'economia, fa paura ovviamente la situazione della Grecia e quindi si vanno a colpire soprattutto i titoli bancari, che così hanno trascinato giù Piazza Affari. Poi semmai il punto interrogativo vero è su MPS, che ieri era riuscita a guadagnare lo 0,2%, quest'oggi invece ha perso il 3,88%, del resto l'istituto deve far fronte a un aumento di capitale da 2,5 miliardi, che è da vedere quando sarà fatto. Secondo indiscrezioni di stampa la BCE potrebbe dare il via libera già a inizio febbraio e proprio per questo ieri era andato su. Oggi ci sono nuove indiscrezioni, per cui ovviamente a livello anche governativo magari si potrebbero pensare a soluzioni che coinvolgano tutto il sistema bancario, proprio che vengano in favore di MPS, ma sono solo alla fine delle elezioni, è tutto da vedere. Fatto sta che ovviamente in un momento di debolezza dell'economia si va a colpire anche i titoli bancari. Allora, sì, sulla vicenda Cassa di Risparmio di Genova invece, perché insomma lì c'erano le scommesse sulle mosse di Andrea Bonomi. Banca Carige è andata bene ieri, oggi ha guadagnato un ulteriore 5,15%, si continua a scommettere sul fatto che Andrea Bonomi, uscito dalla partita Club Mediterranee, entri appunto in Banca Carige, quindi si scommette che prenda una quota, secondo indiscrezione di stampa, attorno al 20%, parte rilevandola dalla Fondazione Carige, si dice attorno al 7%, il resto rastrellando in borsa, e proprio questa ipotesi spinge all'insù i titoli. Peraltro c'è chi sostiene che, visto che Andrea Bonomi si era fra virgolette, innamorato, ricordiamo, negli anni passati di BPM, dalla quale è uscito. Chissà che poi in futuro, se riuscisse a entrare in Banca Carige, poi non effettui un matrimonio tra BPM e Banca Carige. Ma questo ovviamente è tutto... Sì, innamorato non sempre corrisposto, come capita anche nella vita, eh? Insomma, su questi amori un po' difficili. Allora, nel tra i titoli positivi, tutto il gruppo Fiat, CNH Industrial, Case New Holland più 2,40%, Fiat Chrysler, Chrysler Automobiles più 1,60%. E qui ci sono i dati sulle vendite in America, molto positivi, no? Esatto, ieri erano passati inosservati, oggi a mente fredda il mercato ci ha ripensato, sta premiando Fiat Chrysler. Del resto ieri è stato annunciato che dicembre è stato un mese di rialzi per le vendite negli Stati Uniti, più 20%, e soprattutto le vendite dell'intero 2014 per il gruppo sono salite del 16%, ovviamente questo negli Stati Uniti, e ovviamente questo è piaciuto molto al mercato. Ecco perché oggi Fiat Chrysler ha fatto più 1,58. Allora, in recupero oggi Enel più 1,45%, Eni più 1,35%, però attenzione, vabbè, Enel c'era un report di comprare, ma attenzione perché oggi Moody's, e non l'abbiamo detto in apertura del programma, vale la pena ricordarlo, ha puntato l'indice su tutti i titoli energetici legati al petrolio, dicendo che sarà un anno difficile e che le compagnie petrolifere continueranno a soffrire. Non ha parlato di Eni in maniera esplicita, ma delle compagnie petrolifere. Non ci vuole un grande analista per capire che se il petrolio cala come prezzi, chi di petrolio vive non avrà un aumento di fatturati, mettiamola così. Invece Telecom Italia più 0,90%, qui tra virgolette c'entra anche il Sole 24 Ore. Esatto, è proprio il Sole 24 Ore questa mattina ha sostenuto che potrebbe tornare in auge per Telecom Italia l'ipotesi di quotazione delle torri italiane. Se ne era parlato a fine dicembre, poi appunto visto che la quotazione delle torri della Raiway è andata bene, questo potrebbe appunto indurre la compagnia telefonica a fare un'operazione del genere. Proprio su questa ipotesi i titoli hanno rialzato la testa, titoli che però ieri ricordiamo erano andati male. Ancora invece migliori e peggiori in assoluto, Poligrafici Editoriale più 5, ecco che arrivo, scusate, più 5,40, la Cassa dei risparmi di Genova, tu la citavi, più 5,15, Industria e Innovazione più 4,50, fronte opposto invece Crédit Agricole meno 6,60, scusate, Premuda meno 5,46, Tecnimont meno 4,90, Salini Impregino meno 4,80%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Sì, c'è anche Seat pagine gialle sul risparmio più 14%. E invece volete sapere dell'euro? L'euro sul dollaro è a 1,1940, quindi è ai livelli più bassi degli ultimi due anni, ma non è sceso ulteriormente oggi. Traffico e poi tutto il tema fiscale, la delega fiscale, la norma ormai famosa, l'articolo 19 bis sospesa dal Premier, ma in realtà vogliamo affrontare tutto il tema della delega fiscale, perché alcune delle cose che abbiamo letto non mi interessa sapere, continua a scrivermi un ascoltatore, diciamo guardi che veniva cancellata la parte penale sul 3%, non quella civile, ho capito, ma abbia pazienza. Io non ho capito, non la singola norma, non ho capito quale sia l'obiettivo di un provvedimento che tra il tetto del 3%, l'aumento delle soglie dove l'evasione diventava reato di dichiarazione infedele, l'aumento anche della fattura, del tetto per la fattura quando la fattura diciamo non rispondente al vero superava i 1000 euro, e l'aumento del livello sulle dichiarazioni infedeli, ecco quale fosse l'obiettivo finale in un paese che ha il record di evasione fiscale in Europa. Senza Allora, difficile stare un'ora senza parlare per noi davanti a questi microfoni, però al di là della norma del 3% salva Berlusconi e quindi cancellare la condanna dell'ex premier, perché la norma sospesa avrebbe previsto sostanzialmente che quando l'importo delle imposte sui redditi evase non avesse superato il 3% dell'imponibile dichiarato non era reato penale. E qui però già c'è la prima obiezione, il che vuol dire sostanzialmente invitare o rendere più facile, invogliare le persone a dire: vabbè, guarda, alleggeriamo la pena su quel reato fino al 3%, che a casa mia vuol dire essere più tolleranti su un reato, vogliamo metterla così. Non ho capito anche un'altra norma di cui si discute molto meno, ossia la soglia per fare scattare la tagliola del penale per il reato di dichiarazione infedele, cioè quando va nel penale la dichiarazione infedele. Adesso è a 50.000 euro, bisognava portarla a 150.000 euro. Non ho capito perché. Non ho capito il tema delle fatture false, il reato di dichiarazione fraudolenta per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sarebbe scattato quando la fattura non corrispondente al vero avesse superato i 1.000 euro, che vuol dire di fatto autorizzare o rendere più o invogliare a fare fatture false fino ai 1.000 euro. Ragazzi, se io dico che non è più penale ma al massimo civile guidare, diciamo, in stato d'ebbrezza, non sto dicendo che sto invogliando a guidare da ubriachi, ma sto rendendo un po' più facile la guida in stato d'ebbrezza. Infine, i costi delle dichiarazioni infedeli, quando si portano per esempio in deduzione le spese legate ai consumi che in realtà sono del contribuente o dei suoi familiari e non legate all'attività di lavoro, anche quello. Non venivano più punite le voci di costo, per cui insomma si rendeva di fatto più facile. Allora, siccome non ci capisco nulla, Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ora, il restyling delle sanzioni avrà avuto un principio, al di là della manina morta, della manina gelida che nessuno vuole riscaldare, ma avrà avuto una ratio sua complessiva? Prego. Non dimentichiamo che questo è un provvedimento attuativo di una delega, quindi che il Parlamento aveva messo in mano al governo l'obiettivo di rivedere completamente il sistema penale. Le direttrici erano due essenzialmente: punire in maniera più pesante le violazioni maggiori, quindi ritenute più gravi, soprattutto legate alle frodi, e alleggerire un po' la mano su quelle che nel corso degli ultimi anni sono state definite fenomeni illeciti legati ad evasione di necessità. Nel percorso che ha portato appunto alla stesura di questo decreto, come ricordavi giustamente tu, ci sono queste variabili un po' anomale rispetto a questo doppio solco che era stato tracciato dalla delega, perché appunto la dichiarazione infedele, la soglia viene aumentata, le false fatture vengono di fatto depenalizzate sotto i 1.000 euro e quindi insomma molti critici stanno dicendo in queste ore: attenzione, che l'effetto deterrenza complessivo del penale tributario viene meno. Allora, io capisco benissimo, e lo dico a un ascoltatore che dice: attenzione, può anche evitare gli insulti, ma io vado al contenuto. Serviva evitare una perdita di tempo per controlli su cifre non importanti, non dare il tormento agli imprenditori che non avrebbero avuto mai comunque le condanne, ma perdita di credibilità. Allora, se ho ben capito, se l'obiettivo di fondo è: aumentiamo le sanzioni per chi froda volontariamente il fisco con tempi più lunghi di reclusione, se ho ben visto nelle norme previste, aumentiamo le soglie per quelle che sono le evasioni considerate punibili, cioè rendiamo alcune evasioni meno punibili perché più leggere, uno può introdurre una norma diversa. Cioè, voglio dire, però forse non capisco io, Giovanni. Se io porto da 50.000 a 150.000 la pena di carcere da 1 a 3 anni per la dichiarazione infedele, sto dicendo sostanzialmente che fino a 149.000 sei più autorizzato a farla. Altra cosa è introdurre delle norme in cui, per esempio, sugli studi di settore, molte volte abbiamo fatto l'esempio di artigiani, commercianti, che sono vincolati a studi di settore, ma con la crisi in atto dei consumi non riescono a starci dentro, diventa un fisco quasi vessatorio, li vai a perseguitare per 1.000 euro che mancano al fisco. Allora, non si poteva trovare un altro modo per un obiettivo condivisibile? Cioè, non accanirsi per i 100 euro di evasione in un paese che ha 160 miliardi di euro di imponibile, non imponibile che non viene scovato dal fisco, e concentrarsi solo sui reati più forti? Era quello che doveva fare il governo essenzialmente, ed è quello che, a cui dovrebbero richiamarlo le commissioni parlamentari una volta che riceveranno questo testo. Ora però, che cosa succederà di questo testo? Cioè, c'è già chi pensa che la modifica della norma del 3%, la soglia non punibilità del 3%, possa in realtà portare a una ridiscussione generale di tutto quanto il provvedimento. Qual è il pericolo, però? Bisogna segnalarlo, Sebastiano, cioè che il 27 marzo scade il termine per attuare la delega fiscale e a fianco appunto alla riforma del penale tributario ci sono anche altre norme molto importanti e molto attese per dare certezza ai contribuenti italiani, siano essi cittadini che imprese. Quindi insomma il tempo è poco, si è arrivati proprio con l'acqua alla gola a decidere sulle questioni più importanti di questa delega fiscale. Ora è importante rimetterci mano e appunto attuarla secondo quello che era l'indirizzo originario dato dal Parlamento. Punire in maniera molto forte le gravi frodi, cercare di essere un po' più tolleranti, soprattutto per i reati di omessi versamenti, che sono reati tipicamente legati a problemi di carenza di liquidità, perché se io dichiaro e poi non ho i soldi per versare è perché evidentemente mi trovo in una situazione diversa da chi sottofattura o dichiara molto di meno di quello che in realtà dovrebbe, o non dichiara assolutamente, perché ricordiamo c'è anche un reato di omessa dichiarazione. Bisogna avere un po' la lucidità e la coerenza di perseguire un disegno, non farsi tentare da facili scappatoie quando si varano questi provvedimenti. Sì, nel senso che allora uno poteva dire che l'importo, adesso io non voglio sostituirmi al legislatore, però se il 3% era per venire incontro a chi avesse avuto delle difficoltà e avesse omesso una somma abbastanza modesta, se non irrisoria, si poteva mettere un tetto. Uno può dire l'importo sull'imposta dei redditi evasi non è superiore al 3% del reddito fino a un certo reddito, perché allora tagli fuori, perché sai, un conto è il 3% di 100.000 euro, non bisogna essere la palisse, è un conto è il 3% di 10 milioni di euro o 1 milione di euro, perché allora ragioniamo su altre cifre, sennò poi il sospetto che viene ripetuto da molti siti, che se andassero ad avvantaggiare anche grandi casi di evasione, è un sospetto automatico, è scritta coi piedi questa norma. Se si voleva venire incontro alle esigenze di chi viene punito per 100 euro di omessa dichiarazione, bastava anche puntualizzare a che tipi di reati si poteva applicare, semplicemente, e appunto fare la distinzione fra evasione di versamento e evasione di dichiarazione, che per esempio più... per cui tu dichiari correttamente, poi vai in crisi, e gli affari non vanno, resti senza liquidità, le banche ti chiedono di rientrare, quello che vuoi tu, non riesci a fare il versamento, però obiettivamente non può essere considerato come uno che mente, mente basta. C'era anche una parte che riguarda l'abuso del diritto e della compliance fra imprese e fisco, che è altrettanto importante. Sì, è una parte che però prevede un decollo veramente molto limitato, cioè nel senso che riguarderà cioè imprese con 10 miliardi di euro di ricavi all'inizio, quindi è veramente purtroppo è molto limitato. Poi successivamente viene prevista una futura estensione, però è chiaro che insomma è interessante nel principio, un po' meno in pratica, perché riguarda veramente pochi contribuenti. E sull'abuso del diritto una cosa sola, cioè sarebbe legittimo che l'Italia avesse una definizione di quando si comporta in maniera elusiva e di quando non lo si fa, insomma questo. Sì, perché lì il tema è il confine molto delicato tra quando stai eludendo il fisco e quando no. L'abuso del diritto sostanzialmente veniva qualificato come tale quando tu hai una o più operazioni prive di sostanza economica, però poste in essere essenzialmente per avere un vantaggio fiscale. Allora, le sedi fiscali all'estero, le abbiamo viste, i giri, le parti di giro e benefici anche non immediati. Però l'abuso, questa è una norma sospesa, una volta che viene accertato è preceduto da una richiesta al contribuente di chiarimenti da fornire entro 60 giorni. Grazie a Giovanni Parente, tanto adesso le polemiche saranno tutte di carattere politico, però non ha fatto una bella figura al governo, ma anche una risposta. Ragazzi, sono atti collegiali, non si può dire che non si sapeva. Io ho visto un'intervista oggi sul Corriere della Sera pazzesca, perché l'ex presidente della Consulta Franco Gallo, a capo della commissione tecnica che si è occupata del decreto legislativo sul fisco, ha detto: il testo era pulito, ho avuto introduzione del detto articolo 19 bis nel testo elaborato dalla Commissione da me presieduta solo dopo la seduta del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, nel quale è stato approvato il decreto legislativo. Pino Daniele. Poi i tuoi discorsi intellettuali senza onestà, e non mi scuccia più, tanto amore pure tu, tanto amore pure tu. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.